Quarto canto del Purgatorio dalla Divina Commedia di Dante Alighieri. Registrazione di pubblico dominio effettuata per LibriVox da Filippo Gioachin. Purgatorio, quarto canto. Quando per dilettanze over per doglie che alcuna virtù nostra comprenda, l'anima bene ad essa si raccoglie, parca nulla potenza più intenda, e questo è contra quello error che crede ch'un'anima sovr'altra in noi s'accenda. E però, quando s'ode cosa o vede che tegna forte a sé l'anima volta, vasse nel tempo e l'uom non se n'avvede, ch'altra potenza è quella che l'ascolta, e altra è quella all'anima intera. Questa è quasi legata e quella è sciolta. Di ciò ebb'io esperienza vera, udendo quello spirito e ammirando che ben 50 gradi salito era lo sole, e io non m'era accorto. Quando venimmo ove quell'anime ad una gridaro a noi: qui è vostro dimando. Maggiore aperta molte volte in pruna, con una forcatella di sue spine, l'uom della villa quando l'uva imbruna, che non era la calla onde saline lo duca mio, e io appresso, soli, come da noi la schiera si partine. Vassi in San Leo e discendesi in Noli, montasi su in Bismantova e in Cacume, con esso i piè, ma qui convien com voli, dico con l'ale snelle e con le piume del gran disio, di retro a quel condotto che speranza mi dava e facea lume. Noi salavam per entro il sasso rotto, ed ogni lato ne stringea lo stremo, e piedi e man volea il suol di sotto. Poi che noi fummo in su l'orlo supremo dell'alta ripa, alla scoperta piaggia, maestro mio, diss'io, che via faremo? Ed elli a me: nessun tuo passo caggia, pur su al monte dietro a me acquista, finché n'appaia alcuna scorta saggia. Lo sommo era alto, che vincea la vista, e la costa superba più assai che da mezzo quadrante a centro lista. Io era lasso quando cominciai. O dolce padre, volgiti e rimira com'io rimango sol se non restai. Figliuol mio, disse, infin quivi ti tira, additandomi un balzo poco più sue, che da quel lato il poggio tutto gira. Sì, mi spronaron le parole sue, ch'i mi sforzai carpando appresso lui, tanto che il cinghio sotto i piè mi fue. A sederci ponemmo ivi ambedui, volti a levante ond'eravam saliti, che suole a riguardar giovare altrui. Gli occhi prima drizzai ai bassi liti, poscia li alzai al sole, e ammirava che da sinistra n'eravam feriti. Ben s'avvide il poeta ch'io stava stupido tutto al carro della luce, ove tra noi e Aquilone entrava. Ond'egli a me: se Castore e Poluce fossero in compagnia di quello specchio che su e giù del suo lume conduce, tu vedresti il zodiaco rubecchio ancora all'orse più stretto rotare, se non uscisse fuor del cammin vecchio. Come ciò sia, se l vuoi poter pensare, dentro raccolto, immagina Sion con questo monte in su la terra stare, sì ch'amendue hanno un solo orizzonte e diversi emisferi, onde la strada che mal non seppe carreggiar feton, vedrai come a costui convien che vada da l'un quando a colui da l'altro fianco, se lo intelletto tuo ben chiaro bada. Certo, maestro mio, diss'io, un quanco non vid'io chiaro sì com'io discerno là dove mio ingegno parea manco, che l mezzo cerchio del moto superno, che si chiama equatore in alcuna arte e che sempre riman tra il sole e il verno, per la ragion che di quinci si parte verso settentrion, quanto gli ebrei vedevan lui verso la calda parte. Ma se a te piace, volentier saprei quanto avemo ad andar, che il poggio sale, più che salir non posson gli occhi miei. Ed egli a me, questa montagna è tale che sempre al cominciar di sotto è grave, e quant'om più va su e men fa male. Però, quand'ella ti parrà soave tanto che su andar ti fia leggero, come a seconda giù andar per nave, allor sarai al fin d'esto sentiero, quivi di riposar l'affanno aspetta. Più non rispondo, e questo so per vero. E come egli ebbe sua parola detta, una voce di presso suonò, forse che di sedere in pria avrai distretta. Al suon di lei ciascun di noi si torse, e vedemmo a mancina un gran petrone, del qual né io né ei prima s'accorse. Là ci traemmo, e ivi eran persone che si stavano all'ombra dietro al sasso, come l'uom per neghienza a star si pone. E un di lor, che mi sembiava lasso, sedeva e abbracciava le ginocchia, tenendo il viso giù tra esse basso. O dolce signor mio, diss'io, adocchia colui che mostra sé più negligente, che se pigrizia fosse sua serocchia. Allor si volse a noi e puosemente, movendo il viso pur su per la coscia, e disse: or va tu su, che sei valente. Conobbi allor chi era, e quell'angoscia, che m'avacciava un poco ancor la lena, non m'impedì l'andare a lui, e poscia, ch'a lui fui giunto, alzò la testa appena, dicendo: hai ben veduto come il sole dall'omero sinistro il carro mena? Gli atti suoi pigri e le corte parole mosser le labbra mie un poco a riso. Poi cominciai: belacqua, a me non dole di te omai, ma dimmi, perché assiso qui ritto sé? Attendi tu iscorta, o pur lo modo usato t'ha ripriso? Ed elli: o frate, andare in su che porta? Che non mi lascerebbe ire a martiri l'angel di Dio che siede in su la porta. Prima convien che tanto il ciel m'aggiri di fuor da essa quanto fece in vita, perch'io indugiai al fine i buon sospiri. Se orazione in prima non m'aita, che surga su di cuor che in grazia viva, l'altra che val che in ciel non è udita? E già il poeta innanzi mi saliva e dicea: vienne omai, vedi che tocco meridian dal sole e alla riva cuopre la notte già col piemo rocco. Fine del quarto canto del Purgatorio.